Il punto di Stefano Folli. È impressionante come in queste settimane, mentre la politica italiana è ridotta all'ossessivo braccio di ferro intorno a Berlusconi, le sue condanne e la sua uscita dal Parlamento, quasi tutti gli altri spazi siano stati occupati dal Papa Francesco e dalle sue iniziative. La nostra politica rotola in un tunnel sempre più cieco, la politica del pontefice allarga i suoi orizzonti e conquista le prime pagine dei giornali del mondo. Non è solo un fatto mediatico, ma di sostanza. La posizione sulla Siria, sugli immigrati, cambiamenti al vertice della Chiesa e infine la lettera a Eugenio Scalfari, che tende a impostare in modo nuovo il rapporto con il mondo laico, tra fede e ragione. In un modo sempre più deciso, il nuovo Papa occupa nelle coscienze il vuoto lasciato da una politica fallita. Con un rispetto speciale, ed è la novità, verso la posizione dei laici. Non è più un'ingerenza, è una semplice sostituzione, una presa di possesso degli edifici sguarniti. Le conseguenze a lungo termine saranno profonde.